in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri, questa mattina del 26 luglio 2013. Oggi appunto venerdì, inizia l'ultimo, sì, possiamo dire l'ultimo fine settimana di luglio, e questo luglio che sta finendo con l'AFA, con la grande AFA, che già l'anno scorso avevamo sentito già nei primi giorni di giugno, e quest'anno invece si è fatta attendere, sta arrivando proprio adesso a luglio con questa bellissima stagione. E come sempre davanti a me questo bellissimo mare di Cefalù, che anche voi potete osservare dalla nostra webcam e sul sito www.crmepiradio.it, questo bellissimo mare che attira, che attrae un po' coloro che stanno lì vicino e che comunque lo stanno guardando. Peccato per chi magari è ancora e sta lavorando o naturalmente ancora non è in vacanza e pensa e sta sognando questo bellissimo mare, come potete vedere qua a Cefalù, ma come è splendente in tutto il sud Italia. E quindi oggi abbiamo detto che è venerdì 26 luglio, e intanto faccio gli auguri a coloro che oggi fanno il compleanno, onomastico e così via, e iniziamo questa bellissima mattina con una bella canzone che fa svegliare tantissimo, perché CRM è più web e si sveglia, una ci si sveglia sempre con il sorriso. Voi potete richiedere queste e tante altre belle canzoni questa mattina richiedendolo attraverso un sms al 335-56-37-251 o telefonando allo 0921-92-32-92, oppure tramite il nostro sito www.crmepiradio.it o diventando fan della nostra pagina Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. Siate numerosi e ascoltiamo la bella musica di CRM Happy Radio. Seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity has started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell. One that's five and one that's three. Been 2 years since he left me. Good to know. These bruises. anniversari, tre compleanni che si festeggiano in questi giorni, e naturalmente dobbiamo fare tanti auguri alla t-shirt, ossia appunto la magliettina con le maniche corte e così via, che compie 100 anni. Proprio il 24 luglio ha compiuto 100 anni la t-shirt, ma non dimostra affatto. È nata come parte integrante delle divise della Marina Militare statunitense, rigorosamente di cotone bianco, e ha fatto la sua comparsa nel 1913. Da quel momento di strada ne ha fatta parecchia, fino a trasformarsi in capo icona dello street style, in testa alle preferenze di giovani e giovanissimi, apprezzata e indossata anche da persone decisamente più mature. Naturalmente rivisitata e reinterpretata da stilisti, il re dell'eleganza mondiale Giorgio Armani è un vero patito della t-shirt, e che siano di cotone, in seta bianca, nera o blu navy, con maniche di lunghezza variabile a seconda della stagione, lo stilista, pensate, ne possiede 42. Poi nel film, appunto nei veri film americani, è nata, appunto, si è potuto vedere la prima t-shirt in quei sex symbol maschili indimenticabili come Marlon Brando, no? James Dean e tanti altri film. In Italia le più vendute per alcuni decenni sono state le semplici Fruit of the Loom, e oggi le t-shirt sono i capi più acquistati nel mondo, e in versione celebrative, politiche, trasformati all'occorrenza anche in gadget per pubblicizzare eventi o concerti di ogni genere, persino città. La più venduta è quella degli Stati Uniti, dove con la scritta I love New York, con il cuore rosso, sostituire la parola love. Adesso la troviamo anche nelle nostre città italiane, proprio ormai è diventata un souvenir, ecco, la magliettina con questa scritta, è da portare appunto sempre in qualunque luogo e far vedere appunto dove si è stati, nelle città più belle del nostro pianeta. E adesso Neck con Congiunzione Astrale, sempre qui, sempre a CRM Happy Wake Up. Non è mai come era ieri, cambia il senso, cambiano i pensieri, e ti sembra tutto da rifare. Sbagli se ti guardi indietro, punta avanti anche se è mezzo metro, c'è sempre una strada per viaggiare. È un'inguaribile follia saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare, è per quanto mi ha insegnato senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di sdrammatizzare. Non siamo mai distanti, insieme andiamo avanti, questo amore non si può fermare, è congiunzione astrale. Non è mai come era ieri, ma sei un chiodo nei miei desideri, e mi sembra tutto naturale. Inguaribile mania, saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. È per quanto mi hai insegnato, senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di strammatizzare. Non siamo mai distanti, e insieme andiamo avanti, questo amore. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. As you're touching my hand, touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Touching my hand, touching, gentle, touching, yeah, touching, touching, yeah, touching, gentle, touching, yeah, touching. Gentle breezes as you're touching my hair, touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair, touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Questo era Bob Sinclair con Summer Moonlight a CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Curreri. E di solito si sa, qua nel mio programma si parla un po' di donne, degli consigli al mondo femminile, ma anche un po' sparlottando un po' anche sul mondo maschile. Però in questo caso questa nuova invenzione mette d'accordo un po' uomini e donne, e infatti Luggs, noto produttore di pannolini, ha creato un dispositivo molto particolare. Si tratta di una cintura che può indossare il papà e che gli consente di sentire in tempo reale il bambino che scalcia nella pancia della mamma. Si sa che anche molte volte anche nei film si è creato un po' questa invenzione, si sono viste un po' queste invenzioni dove il papà voleva appunto sentire quello che provava la mamma, che appunto nel sentire il bambino nel scalciare nella pancia, oppure sentire i movimenti proprio stessi del bambino, un po' vivere la gravidanza anche il papà. In questo caso il dispositivo è composto da due panciere, una che indossa la mamma e serve per rilevare i movimenti del bambino, una invece motorizzata che viene invece indossata dal papà e replica i movimenti registrati. In questo modo i papà possono sentire il bambino come se fosse nella loro pancia. Non si tratta del primo dispositivo appunto che si propone di fare questo esperimento, quindi di provare agli uomini le sensazioni della gravidanza, ma anche in questo caso difficilmente lo strumento arriverà sul mercato ed è stato usato soprattutto nell'ambito di una campagna pubblicitaria, almeno qua l'articolo dice. Però penso che più là, secondo me, tra le richieste dei papà ansiosi di sentire già in anticipo il loro bebè, un po' di mettersi nei panni della propria mamma, un po' forse secondo me questo dispositivo andrà sul mercato e farà grandissimo successo.

faccio file di files e poi li archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare, niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola, finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Famiglia, oh, famiglia, estate. Estate, estate di Jovanotti, ma è la nostra estate 2013 che sta continuando e si sta facendo sentire con la bellissima AFA che in questi giorni ora sarà appunto, interesserà al nostro, la nostra bellissima Italia, la nostra bellissima penisola, nonché anche la Sicilia, tutto questo caldo che arriverà, che finalmente si è fatto attendere per chi ama queste giornate di AFA che ricordano appunto l'estate, perché l'estate senza caldo che cos'è, perché naturalmente sì, c'è il mare, ci sono le ferie, ci sono le vacanze, però se non c'è il caldo che piacere c'è? E lo dico perché appunto sono una amante di queste bellissime giornate di scirocco, che qui in Sicilia è veramente stupendo. Ma ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me, perché potete scegliere anche voi la vostra musica preferita, quella che volete ascoltare questa mattina, oppure volete riascoltare, perché ricordiamo che nel nostro sito www.crmpiradio.it è possibile ascoltare le repliche in un podcast dei nostri programmi. Inoltre potete inviare un sms a 335-56-37-251 o telefonare allo 0921-92-32-92 e vi risponderò io, potete richiedere anche da lì la vostra musica preferita. Oppure se siete lì, che state chattando, che state osservando le notizie che girano sul web, potete andare o sui social network, potete andare su Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio e potete diventare fan della nostra pagina Facebook e quindi essere aggiornati sulla nostra programmazione e sulle notizie un po' che circolano anche nel nostro profilo Facebook. E poi se volete anche dei consigli, aggiungiamo anche questo, se volete dei consigli su cosa mettervi questa mattina, perché si sa che da un'indagine condotta da ebay.it, il noto appunto sito di acquisti e di annunci online, ha stabilito un po', ha studiato un po' le abitudini degli italiani davanti a un armadio, davanti ai loro capi. Naturalmente si sa, semmai è cosa detta, cosa ripetuta, che le donne davanti a un armadio stanno più del tempo dovuto e poi alla fine mettono sempre la stessa cosa. Però come gestisce appunto l'italiano il rapporto con gli abiti, con i vestiti? Da un'indagine appunto condotta da eBay, appunto si sono analizzati i comportamenti vissuti degli italiani davanti alle ante dell'armadio, le prese con la complicata missione di scegliere l'outfit con cui affrontare la giornata. Analizzando l'attitudine appunto generale nei confronti dell'abbigliamento, l'indagine fa registrare che il 72,5% degli intervistati dichiara di comprare un capo quando vede qualcosa di proprio gusto. Poi c'è il 69% ammette di badare soprattutto al prezzo, mentre il 66% si limita a fare acquisti per lo più in occasione dei saldi. E le donne sono invece molto più attente al prezzo rispetto alla marca. Il primo è una questione di primaria importanza, secondo il 75% delle intervistate, mentre la seconda non ha il valore per il 60% del campione. Se ispezioniamo il contenuto dei guardaroba dei nostri connazionali, appunto, è un po' ricollegandoci un po' alla notizia delle t-shirt, appunto, troviamo soprattutto i jeans, t-shirt, ma anche maglioncini di vario tipo. Poi un altro elemento interessante è l'affezione che si sviluppa nei confronti dei propri indumenti e i motivi per cui questa nasce. Il 67% degli intervistati dichiara di tenere in particolar modo un certo capo perché veste alla perfezione. Ancora con curiose differenze tra uomini e donne, gli uomini prediligono alcuni capi perché li legano al periodo della giovinezza oppure perché sono del loro stilista preferito. Invece le donne fanno registrare due tendenze opposte: da una parte il loro lato romantico che le lega a un certo capo perché questo è stato indossato in un giorno particolare, felice o addirittura il momento più bello della loro vita; dall'altra il loro lato pragmatico le porta ad affermare che il loro capo preferito è quello più costoso che possiedono. Quindi questo è un po' ciò che è stato raccolto dall'indagine svolta dal sito appunto ebay.it. un po' rispecchia quello che siamo, un po' ci incuriosisce, ma è sempre interessante sapere un po' cosa fanno i nostri connazionali. Adesso Empire of Sun con Alive. Buongiorno ancora con CRM Happy Wake Up.

al su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, inventato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, oh, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la notte era finita e ti sentivo ancora, l'amore della vita, meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso, la bellissima canzone dei Negramaro, che però appunto non è proprio loro, ma del nostro mi ricordo il nome, comunque lo ricorderò nella giornata e ve lo dirò. Comunque io intanto volevo appunto introdurre attraverso questa canzone appunto il nostro discorso sempre dei cani. Un po' mi dicono Eva, sei stata molto ripetitiva, ma certo, perché comunque ci tengo che questi cani trovino una casa, e la trovino grazie ai nostri fan, soprattutto di CRM Happy Radio, e i nostri fan appunto di CRM Happy Wake Up e di tutti gli altri programmi che ci stanno, comunque delle persone che ci stanno ascoltando e che hanno bisogno magari di una compagnia in più, di un amore in più. Infatti sono i cani del canile di Cefalù, che si trova a Isnello, e che sono un bel 20 cani che hanno bisogno di trovare una casa, perché appunto sono soli da tanto tempo. Ed è giusto ricordarsi anche di loro e di darci una casa, darci un affetto. Quindi chi è interessato magari ad avere un cane o a regalare un cane, che sono tanto, tanto dolci, e ancora non abbiamo messo le foto su internet, ma presto li metteremo, e può comunque riferirsi a Francesca De Luca presso il comune di Cefalù, ma può anche inviare un sms qua a CRM Happy Radio, e quindi riferirsi a me, ma anche a Peppe Turdo e Maria Luisa La Placa. Quindi siamo questi un po' i punti di riferimento per questa iniziativa di adottare un cane, appunto il canile di Cefalù, e quindi chi è interessato, chi vuole un amico in più, possiamo dire un amico da mare, un amico a cui dare molto, molto calore, appunto può adottare un cane del nostro canile di Cefalù. Poi inoltre iniziano un po' gli appuntamenti in un procinto della Festa del Salvatore. Presto avremo il programma ufficiale della Festa del Salvatore, non vi anticipo niente perché non è giusto, quindi non voglio rubarvi la sorpresa, ma è il comitato dei festeggiamenti per il Santissimo Salvatore. Ho lavorato tanto, ha lavorato bene e lo vedrete, perché naturalmente vi offrirà una festa di tanto di cappello, ecco. Ma intanto dal 27 luglio al 6 agosto ci sarà appunto il Kefart Festival 2013 a Cefalù. È arrivato alla sesta edizione, in programma dal 27 luglio c'è il Gazzo Behind the Border, mostra fotografica di Valeria Taccone, aperitivo inaugurale offerto da Bio Viola. Poi abbiamo domenica 28 luglio alle ore 19 Le Città Invisibile, mostra di Giacchino Runfola e Nino Iovino, e performance appunto degli artisti con accompagnamento musicale di Salvatore Pagnotta e Roberto Minuto, aperitivo augurale offerto da Alessandro di Camporreale. Poi abbiamo lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 abbiamo Mirror quarta edizione, cioè gioco di specchi, una rassegna cinematografica a cura di Eleonora Failla. Poi abbiamo giovedì 1 agosto che Fart Labo, interpretare e improvvisare storie scritte, storie da scrivere, performance del laboratorio teatrale a cura di Marco Manera, alle ore 21 presso la Corte delle Stelle. Poi abbiamo che Fart Musica Contest seconda edizione, venerdì 2 agosto alle ore 21 presso il Lungomare Giardina, ci saranno una serie di appunto di gruppi electro rock, rock indie punk, afrobeat e garage punk. E infine il 3 agosto alle ore 23 presso il nostro lungomare di Cefalù, Mario Incudine in concerto, quindi Italia Live appunto con la sua musica folk. E domenica 4 agosto sempre alle 21 opera dei Pupi Siciliani, la terribile e spaventosa battaglia tra Orlando e Agricane a cura della compagnia di Nino Cuticchio e figli. Quindi tanto per adesso, tanto spettacolo offerto dall'associazione Fuori Orario con il progetto appunto Che Fart Festival 2013 a Cefalù, che è arrivato appunto alla sesta edizione, che l'altro giorno sono stati qua nei nostri studi invitati appunto dal nostro ormai collega Pippo Carrozza, che ricordiamo il suo programma è il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 11, e quindi al posto mio io sono il lunedì e venerdì e lui il martedì e giovedì e il sabato, che saluto tanto con affetto e che c'è sempre lì a seguire noi, a seguire tutti i suoi colleghi con tanto affetto. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me: potete inviare un sms al 335 56 37 251 o telefonare allo 09 21 92 32 92. E adesso continuate a vederci con Jetty Rax. I see you. You were never young, my love. I can tell not by the way that you smell, but by the way you move your tongue, my love. Somebody shake me, what can I do? Am I in love with the night? Am I in love with you? Will you take what I've got? Will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through to get to you. It's so true, it's so true. I see you, now that I see you. Ain't down just a thing for us to see this through. When you came into focus, how could I? How could I pretend I didn't notice?

questo era John Newman, Love Me Again, CRM Happy Wake Up. E sempre un po' parlando di notizie sempre un po' più strane, questa è una, forse una delle più strane che abbia annunciato appunto nel nostro programma CRM Happy Wake Up, ossia la macchina che ricicla il sudore e lo trasforma in acqua potabile. Ebbene sì, esiste anche questo, è stata da poco creata la prima macchina che recupera il sudore dei vestiti e lo trasforma in acqua potabile. La macchina è nata come provocazione realizzata da UNICEF e Gotia Cup in collaborazione con l'agenzia deportivo e l'ingegnere Andres Hammar, ma funziona perfettamente ed è in grado di estrarre l'acqua dai vestiti intrisi di sudore posizionati nell'apposito scomparto e renderla potabile. Certo, non ha un risvolto veramente tranquillo, comunque sia un po' sdegna un poco, naturalmente si sa il sudore soprattutto in estate abbonda tantissimo, e non solo quello, e quindi ora pensare che questo sudore si possa trasformare in acqua potabile un po' sdegna, ecco. Ma comunque chiaramente è difficile produrre grandi quantità d'acqua con questo metodo, ma l'obiettivo è quello della sensibilizzazione, spingendo a riflettere sul fatto che moltissime persone nel mondo hanno difficoltà di accesso all'acqua potabile. Quindi anche se questo ha un risvolto di sensibilizzazione, però in questo caso comunque può portare a pensare quanti hanno bisogno di acqua potabile, e con un semplice macchinario, con ingegno si può appunto realizzare questo e portare un po' quel sudore che magari abbonda ad acqua potabile, chissà. Ma intanto noi sudiamo un poco, magari chissà se anche questo nostro sudore poi si può trasformare in acqua potabile, e lo facciamo con Marco Mengoni con Pronto a Correre. Non vuoi più camminare, a DRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. I've been around the world, but never find the right girl. They want to call my sugar, they want to call my lover. I mean the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, i grandi concittadini Caruso Valenziano, O Mami Daddy, che saranno, che troverete appunto la domenica a Lido Golden Beach, Lido Salinelle Beach, scusate, e appunto tutte le domeniche a far ballare appunto i nostri turisti, ma anche tutti coloro che comunque li seguono molto volentieri con le loro belle canzoni, naturalmente i loro successi, proprio loro, ecco. Ma arriviamo sempre, parliamo un po' del nostro consueto appuntamento con la nostra grafologa Candida Livantino, che ci aiuta un po' a capire quei tratti appunto interessanti del nostro carattere in riferimento a come scriviamo come scarabocchiamo un po' il foglio, un po' facendo riferimento al mondo, quindi dell'infantile, quindi dei bambini, per così via appunto andare sempre un po' più ragionando o riflettendo un po' sul nostro carattere che va maturando, che va crescendo. E nelle scorse appunto settimane abbiamo parlato del tratto e quello anche del modo della pressione che noi facciamo sul foglio quando scriviamo, quando facciamo uno scarabocchio. Adesso invece ci riferiamo un po' alla forma di questo scarabocchio, ossia quando il bambino inizia a scrivere, o meglio cerca di disegnare qualcosa nel foglio, e lo fa facendo dei scarabocchi. E abbiamo detto appunto cosa vogliono dire questi scarabocchi, ma anche il fatto della pressione, cosa vuole intendere dire appunto quando il bambino fa una forte pressione sul foglio o la fa molto più leggera. Così un po' ci riferiamo anche al mondo degli adulti. Ma adesso ci guardiamo un po' alla forma. un elemento molto importante anche per capire il nostro mondo interiore. Il bambino che nel fare uno scarabocchio fa un movimento curvo con la mano formando un cerchio manifesta la sua grande voglia di comunicare. È espansivo, estroverso e sempre allegro, molto sicuro di sé, aperto anche con le persone sconosciute, ed ha una gran voglia di scoprire il mondo. Ora mi ricordo un po' sempre dai nostri riferimenti appunto agli studi di questa grande grafologa, mi ricordo che appunto questo movimento curvo anche nella scrittura dava questa espressione appunto di espansività, ma anche di super organizzazione, di mantenere tutto sotto controllo e anche sapersi facilmente organizzare. Quindi un po' c'è questo riferimento al movimento curvo, all'espansività, quindi all'esteriorità, quindi al dare agli altri e comunque tenere anche tutto un po' vicino, anche sotto controllo. Invece quando il bambino disegna angoli, quindi nello scarabocchio, significa che vive in uno stato d'animo di tensione che non è sereno. Questo può dipendere dal fatto che qualcosa lo ha ferito e così al genitore chiede di essere protetto e accudito. Può anche dipendere dal fatto che un bambino particolarmente sensibile è anche molto timido ed estivo a familiarizzare con persone diverse dai genitori. Può anche essere che questo stato di tensione nasca da situazioni contingenti come la nascita di un fratellino o la paura di affrontare la scuola materna. Sono problemi che si risolveranno man mano che il bambino appunto crescerà, grazie all'aiuto dei genitori che lo devono colmare di attenzioni e tenerezze. Ma c'è anche un altro particolare in questi scarabocchi, ossia anche la presenza di puntini sparsi qua e là sul foglio. Significa che il bambino vive in uno stato di forte emotività legato alla paura di essere abbandonato. Succede spesso quando i genitori lavorano entrambi, scarica così picchiettando sul foglio che rappresenta l'ambiente in cui vive e si relaziona e relaziona la sua ansia appunto nel foglio. Quindi può essere anche un suo sfogo, un momento di sfogo che appunto lo manifesta appunto nello scarabocchio, in quel foglio bianco che è lì davanti a sé. Ma noi continuiamo a ballare con la musica di CRM più Wake Up, adesso arriva Robin Thicke con Blurred Lines. Do

di generosità, non solo appunto di notizie strane o discorsi sul nostro carattere, sul collegamento tra la nostra scrittura e il nostro carattere. Ecco, un caso di generosità è un mondo che è dominato dall'egoismo. Ci sono anche questi piccoli gesti di generosità che veramente si fanno sentire, ecco, quando veramente sono puri e senza altri scopi di lucro. E infatti un uomo che da 25 anni a questa parte taglia gratuitamente i capelli ai senza tetto, chiedendo come pagamento un abbraccio. L'uomo si era appena ritirato dall'attività per andare in pensione, quando un giorno ha sentito un sermone sull'aiutare i bisognosi che lo ha molto colpito. Quest'uomo appunto oggi attualmente quindi ha messo a disposizione della sua comunità le sue competenze e capacità, andando a tagliare i capelli ai barboni, e prima nelle case di accoglienza e poi direttamente appunto nelle strade. Ogni giorno c'è una fila per usufruire dei suoi servizi. Alcuni clienti spiegano che il taglio di capelli è di più importante di quel che sembra. Molto spesso appunto i senza tetto che vorrebbero trovare un lavoro si trovano e appunto che il loro aspetto un po' scoraggia coloro appunto i potenziali datori di lavoro. Quindi l'altruismo di questo uomo veramente non ha limite, non ha confini. Gli basta solamente un abbraccio e tanto tanto affetto. Lo stesso affetto appunto che chiedono i nostri cani, appunto, che si trovano al canile di Snello e che hanno bisogno appunto di un padrone. E spero che qualcuno dei nostri ascoltatori, dei nostri fan appunto, possa avere questa sensibilità appunto nel prendere un cane appunto che dice Falù e trattarlo come si deve, dargli tanto amore e tanto affetto, una casa dove stare, dove appunto viene accolto, perché comunque nel canile sono ben nutriti, si trovano abbastanza bene, però hanno bisogno di qualcuno con cui giocare, con cui qualcuno da amare, qualcuno da coccolare. Quindi mi raccomando, appunto i riferimenti sono Peppe Turdo, Maria Luisa La Placa, Francesca De Luca presso il comune di Cefalù e io, Patrizia Curreri, presso la radio CRM Happy Radio. Appunto mi hanno un sms a 335 5637 251, telefonando allo 0921 92 32 92 e continua la nostra musica, la musica di CRM Happy Wake Up. Adesso arrivano i Bastiglia con Pompei. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like tumbling down in the city that we love? Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like... E aspettando l'inizio della nostra festa di Cefalù, la festa del Santissimo Salvatore, che sarà, ricordiamo, il 4, il 5, il 6, e aspettando tra poco la pubblicazione del programma ufficiale, e l'associazione Fuori Orario, appunto Associazione Culturale Fuori Orario, organizza il Kefart Festival 2013, che è arrivato alla sesta edizione, e l'organizza appunto pieno, cioè nell'organizzazione ci sono appunto arte, musica e spettacolo, e dal 27 luglio al 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 22, nell'ex mercato ittico in via Mendola ci sarà una mostra fotografica di Valeria Taccone. Poi dal 28 luglio al 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 22, presso la Corte delle Stelle ci sarà la mostra di Giacchino Runfola e Nino Iovino. Poi dal 29 luglio al 31 luglio, gioco di specchi Mirror, quarta edizione, alle ore 21 appunto presso il cortile del Teatro Comunale Salvatore Cicero, rassegna cinematografica a cura di Eleonora Failla. Poi giovedì 1 agosto, che Fart Lab, alle ore 21 appunto presso la Corte delle Stelle, interpretare e improvvisare storie scritte, storie da scrivere, performance del laboratorio teatrale a cura di Marco Manera. Poi venerdì 2 agosto alle ore 21 presso il Lungomare Giardina, che Fart Music Contest, arrivata alla seconda edizione, con musica rock, electro rock, indie punk, afrobeat, garage punk. Poi sabato 3 agosto invece ci sarà presso il Lungomare Giardina, sempre alle ore 23, intorno alle ore 23, Mario Incudine in concerto Italia Thalia Live Tour, quindi alle ore 23, sabato 3 agosto presso il Lungomare Giardina. Poi invece il 4 agosto alle ore 21 presso la Corte delle Stelle, l'opera dei pupi siciliani a cura della compagnia Nino Cuticchio e figli. Opera dei pupi siciliani, appunto, la terribile e spaventosissima battaglia tra Orlando e Agricane. Quindi questi sono gli appuntamenti organizzati appunto dall'associazione Fuori Orario, quindi all'interno del Kefart Festival 2013 a Cefalù, che è arrivata la sesta edizione, e ben presto sapremo anche un po' quello che succederà durante la festa del Salvatore. Non anticipo niente perché dovete essere talmente curiosi da e subito guardare il programma appena sarà pubblicato, che è bello fresco fresco lì, che tra poco appunto sarà in tutti, appunto nel social network, ma anche nei vari siti di Cefaludesi, ma anche nelle nostre strade. Quindi adesso arriva David Guetta con Play Hard. Said our hustle's work is never through. We're making it cause we're making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Come on baby and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. Hit that thang thang, girl stop it. Wanna just bang bang and pop it. While the club crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Work it out. Said our hustle's work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job, yeah. Death looking plush, ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city, if they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me, work it out. Got a gang of cash, and it's going all on the ball. And it's going fast, cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law.